Friuli nel mondo, 116ª trasmissione dedicata agli emigrati. Canti, danze e suoni del Friuli. La soave e penetrante dolcezza della villotta La Viarte di Arturo Zardini vi porti, cari amici in ascolto, il soffio della primavera friulana. Canta il coro di San Giorgio di Nogaro, diretto da Bruno Sebastianotto. Interpretazione di Helga Chiussi, ascoltate la canzone dal titolo L'Aligrie di Ottavio Paroni, su testo di Pietro Someda De Marco. Puoi girar alla me case, chanto sant, a blanc sot vos, l'allegrie, l'è rivat il mio moros, l'allegrie. Soy corrude sulla parte, tutto al mondo all'ier in flor, sottasate, vuoi cantar a pene vos, benedet sì il Signore, l'allegria. Il cantante Galdino Turco esegue la Staiare del Gno Pais di Mornello su versi di Dino Virgili. Cantando me civitis, dome gris, ballaran pandianis e suris, sudaran lirani siutaran, si no soy yo cantar, cuidirali cantonetis dal país, cuidirali lusignis e ti. ballarando me civitis, do me gris, ballaran pandiani se suris, sudaran lirani si un parla, se non so io cantar. Lui dirà li canzonettis del paese, lui dirà li lusigni sei ti, se no io cosa cantar qui paese ti vuoi al mese, se no io cosa amar. Il complesso di Tonin Kuberli esegue questa tipica danza friulana che vi porta all'odore delle sagre paesane e lo scintillio ed il profumo del nostro vino. Gnotta d'Avril di Arturo Zardini, eseguita dal quartetto vocale Stella Alpina di Cordenons, è una villotta ispirata ad un profondo senso di serenità e di pace. L'olio t'imbrucio risca stovi sciorra che luna e se svembiavi c'è firmamento. Ed infine eccovi questa scanzonata suonata dal titolo Catine di Bruno Degano, eseguita dal complesso di Tonin Kuberli. Thank you. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pelizzari.